l'altra Europa. Buon sabato da Federico Taddia e benvenuti all'altra Europa. Chiedo scusa per la voce un po' afona, ma sono un po' malato e reduce anche dallo speciale di ieri sera, l'Emilia che riparte, ma siamo qua come ogni sabato per raccontare l'Europa, l'Europa delle storie, delle persone, l'Europa della politica, dell'attualità, l'Europa che viviamo quotidianamente. Cerchiamo anche altri punti di vista, altre suggestioni. Lo facciamo in collaborazione con il portale transeuropeo Euronet, euronet.eu, per vedere tutte le inchieste in tante lingue, in tante firme. Sono le sfumature della nostra Europa. E ci siete anche voi attraverso i social network, potete seguirci in diretta. I link sono @FedericoTaddia, l'account in Twitter, oppure su Facebook, facebook.com/l'altraeuropa, pagine che aggiorniamo minuto per minuto con tutti i link relativi agli argomenti che andremo a toccare. Sarà un viaggio come sempre, andremo a scoprire confini che non ci sono più, andremo a scoprire quello che sta succedendo in Germania, dove i pirati, di cui si è parlato tanto, stanno tornando in auge, ma per motivi diversi, e lo vedremo il perché. E parleremo di OGM, un tema che tanto ci spaventa, ma dove l'Europa si sta facendo sentire. Però partiamo dal Portogallo e partiamo giocando. La musica che state ascoltando è quella di uno spot, lo spot relativo a un gioco in scatola che sta spopolando, è un gioco molto gettonato in attesa del Natale, ed è un gioco, si intitola Arriva la Troica, dove vince chi riesce a far fallire il Portogallo, chi riesce a mandare il Portogallo in default, una sorta di Monopoli dove però al posto delle carte imprevisti e probabilità ci sono gruppi di interesse e paradisi fiscali. Per capirci di più di questo gioco e soprattutto come è nato, qual è stata l'intuizione che appunto ha generato un gioco in scatola di cui si sta così tanto parlando, abbiamo uno degli ideatori. Diamo il benvenuto a Filipe Preto. Ciao Filipe. Ciao, buongiorno. Buongiorno. Tu parli italiano perché so che hai lavorato o forse hai studiato qui in Italia, vero? Sì, ho vissuto per 5 anni a Milano e studiato lì pure. Mm-hmm. Avete formato un team di amici e di colleghi, tu in particolare sei un grafico, ma siete esperti di giochi? Due di loro sono esperti di giochi perché lo fanno già da tanti anni come passione da una parte, e uno di loro è accademico all'università. Sì. E insegna game design. Fantastico. Altro che matematica. Il gioco in portoghese come si chiama? Il gioco si chiama Vem aí a Troika, arriva la Troika. Ecco, e l'idea era, immagino, quella di sdrammatizzare la crisi, quindi una sorta di provocazione, e inserendo sì, certo, però appunto il gioco come chiave per avere successo, anche perché appunto il gioco in scatola sta piacendo e sta piacendo tanto. Nasce proprio per questo, nasce per giocare con la crisi. Ma sì, un po' l'idea è quella. Innanzitutto essere un motivo di intrattenimento. Sì. Ma poi può essere anche visto come un momento per riflettere sui problemi della società, innanzitutto quella portoghese. Mm-hmm. Infatti è un gioco anche dove si fa satira, so che nelle carte ci sono comunque caricature in cui si possono riconoscere politici, ci sono gruppi sociali che vanno dai club di calcio agli avvocati, ai trafficanti, ai trafficanti di droga. E la dinamica del gioco qual è? Come si fa a far fallire il Portogallo? Sì, la dinamica è semplice, perché a parte le carte dei gruppi e dei leader che ti determinano la strategia del tuo gioco, l'obiettivo è fare il massimo di punti alla fine tramite la compra, l'acquisto di titoli di dei paradisi fiscali cosiddetti offshore, che poi man mano il gioco avanza possono a certo punto finire, e quando finiscono, ossia non ci sono più carte di soldi, il paese fallisce, cioè nel senso che non ci sono più soldi nel tesoro dello Stato. Questo è un modo di finire il gioco. Da un'altra parte c'è una carta un po' particolare che si chiama la Troica, che quando arriva, quando viene fuori, il gioco finisce. Questo succede di solito verso la fine della pila delle carte. Felipe, e qual è il successo? Perché sta piacendo così tanto? Ma chiaramente l'argomento è all'ordine del giorno, non c'è nessuno che non ne parli ogni giorno. Cioè, prima c'era il calcio, adesso c'è la crisi, perché tocca a tutti. E il successo è, penso che sia lì. Sì, insomma, sì. Cioè, l'idea di prendere un argomento che si sta parlando in ogni telegiornale, ogni sera, e avere il coraggio di ribaltarlo, perché ridere della crisi non è... Insomma, esatto. Ma quella è anche una lunga tradizione portoghese, perché ci sono dei giochi barzellette un po' sulle cose più cattive, di solito succedono sempre con grande intensità. È che questo è strano, perché comunque quello portoghese è un popolo apparentemente malinconico, e invece poi riesce a, no, questa malinconia, a canalizzarla in forme di satira, in forme di sdrammatizzazione molto belle. Questo è un ottimo esempio. Ci vuoi dare un sito internet per tutte le informazioni, per conoscervi meglio? Sì, certo. Cioè, noi abbiamo creato un'azienda per la produzione e la commercializzazione del gioco, che si chiama Tabletip Games. Okay. E appunto sull'internet all'indirizzo tabletipgames.com. Perfetto. Abbiamo detto molte volte che la crisi si vince anche con la creatività, e anche voi siete un ottimo esempio appunto di questo importante stimolo, di questo importante valore che è la nostra fantasia. Grazie davvero, complimenti a te, complimenti a tutto il tuo team. Ciao Felipe. Ti invito, grazie. Ciao. Europost-it. Peter Pan Cup a stile libero nel parco. La mattina di Natale, nel parco più grande di Londra, Hyde Park, si terrà l'annuale gara per sportivi coraggiosi sprezzanti del gelo. Si tratta di una gara di nuoto organizzata nel Serpentine, il lago artificiale che attraversa i Kensington Gardens. Il lido del Serpentine è una meta molto affollata d'estate, che viene letteralmente abbandonata durante i mesi più freddi. Riprende vita il giorno di Natale e dintorni proprio in occasione di questo evento per sportivi diversamente abili, che si tiene oramai dal 1864. Per partecipare è necessario essere abituati a nuotare in acque gelate e essere membri del Serpentine Swimming Club. Insomma, non c'è posto per l'improvvisazione. Per maggiori informazioni, visitate il sito del circolo di nuoto serpentineswimmingclub.com. Pas de boulot, pas de diplôme, partout la même odeur de zone, plus rien n'agite tes neurones. Pas même le shit que tu mets dans tes cônes. Va voir ailleurs, rien ne te retient. Va vite, perds quelque chose de tes mains. Ne te retourne pas, ici tu n'as rien. Et sois le premier à chanter ce refrain. Una canzone francese, una canzone folk, una sorta di inno dei contadini, un inno che celebra la campagna. E abbiamo usato questa canzone per introdurre il prossimo argomento, che ha un titolo molto chiaro, l'argomento lanciato questa settimana da Euronet, ed è OGM, essere o non essere l'eterna diatriba con gli ambientalisti che sostengono che gli OGM possono danneggiare la salute umana, ma il loro divieto poi potrebbe danneggiare la competitività dell'Unione Europea. Ma non è solo una competitività in forma economica, finanziaria, perché le nuove tecnologie possono aiutare gli agricoltori. Posizioni che difficilmente si riescono a conciliare, posizioni molto diverse anche all'interno dell'Unione. Basta veramente, che ne so, la Germania 3 anni fa rifiutò la licenza al mais di Monsanto, ma adesso ha aperto le porte, come in Svezia, la produzione di patate rinforzate. La Gran Bretagna è convinta nel suo sì alle culture OGM. L'Ungheria invece negli anni ha ridotto queste culture. In Italia c'è stata una sorta di apertura qualche giorno fa del ministro Clini, che ha detto almeno la ricerca non va fermata. Insomma, per avere una fotografia di quello che sta accadendo, abbiamo chiesto un aiuto al professor Dario Frisio, economista agrario e presidente del comitato di direzione della Facoltà di Scienze Agrarie e Alimentari dell'Università degli Studi di Milano. Buongiorno Frisio, benvenuto all'Altra Europa. Buongiorno. A lei gli OGM fanno paura? No, assolutamente. Ma è però una parola che incute paura soprattutto in Italia. I sondaggi sono ben chiari anche in quello che è il percepito dei cittadini. C'è poca conoscenza? Sì, ma c'è anche un problema proprio lessicale, nel senso che credo che quello che faccia più paura ai cittadini non è il termine geneticamente modificati, ma il contiene organismi. Nell'opinione pubblica purtroppo la conoscenza genetica è limitata, cioè sì. Il fatto che tutti gli alimenti di cui ci cibiamo provengono da piante che contengono geni non è molto condivisa, insomma la gente spesso equivoca su questi aspetti, non ha ben presente la questione, per cui è sul fatto proprio del termine contiene organismi, peraltro, che la gente si preoccupa, perché pensa magari a qualche animaletto presente nel prodotto, che assolutamente non è vero. Uh-huh. Quindi c'è una posizione che poi è legata al fatto anche di non rendersi conto che noi ci cibiamo quotidianamente, anche per quanto riguarda molti prodotti tipici nostri, di prodotti che hanno utilizzato piante geneticamente modificate. Mi riferisco ai formaggi, il grana padano, il parmigiano reggiano. Nei mangimi sono contenuti soia geneticamente modificata, mais geneticamente modificato. Poi ovviamente nella catena alimentare non si ritrovano più queste modifiche genetiche, perché vengono assorbite dagli organismi come tutti gli altri geni, non c'è nessuna differenza. L'Europa l'Europa si muove, l'Europa sta chiedendo all'Italia di fare passi avanti. C'è stata una condanna della Corte di Giustizia per aver vietato le coltivazioni di mais tempo fa. Adesso non vorrei entrare nelle pieghe giuridiche e legislative, perché è sempre un mondo per addetti ai lavori. Mi piacerebbe fare invece una sorta di divulgazione un po' più popolare. Ci può spiegare, si può fare comunque un quadro europeo attualmente, una fotografia di quello che è il rapporto tra OGM e singoli stati? Dunque, a livello europeo la situazione è presto detta. Praticamente le piante geneticamente modificate si coltivano in 8 paesi, però in gran parte per piccolissime superfici. L'unico paese che ha adottato in modo molto deciso questa tecnologia è la Spagna. La Spagna coltiva più di 100.000 ettari di mais geneticamente modificato ormai da diversi anni, e anche nell'ultimo anno, cioè quest'anno, nel 2012, c'è stato un incremento di circa 20-25.000 ettari, che dimostra che la tecnologia funziona, perché quando si diffonde, quando aumentano le superfici nella coltura, i casi sono due: o c'è un supporto di sussidio derivato da politiche, oppure vuol dire che tecnicamente e in termini economici la coltura vale. E poi ci sono Svezia e Germania, come lei accennava prima, che da, dall'anno scorso praticamente hanno cominciato a coltivare la patata Amflora, che ha una destinazione però industriale, quindi viene coltivata esclusivamente su contratto, cioè ci sono le imprese che hanno bisogno di questa patata per la fabbricazione di colle, di carte, eccetera, che fanno contratti con gli agricoltori. Sì. Negli altri paesi ci sono pochi ettari di mais. Tenga presente che effettivamente soltanto il mais e la patata sono autorizzati. Questo però cosa vuol dire? Che l'Europa non è OGM free, ma in Europa entrano prodotti geneticamente modificati che sono necessari per l'alimentazione del bestiame, come vi dicevo prima. Ho capito. Professore, un'ultima domanda proprio per avere un assaggio, ma poi approfondiremo nelle prossime puntate questo tema, perché è un tema caldo. L'Europa poche settimane fa ha chiesto un incentivo, ha chiesto nuovi incentivi, ha chiesto di provarci, ha chiesto di investire nell'agricoltura biologica, dicendo che anche può essere una nuova forma di occupazione, soprattutto per i giovani. Sì. Ecco, nel momento stesso in cui chiede più OGM e chiede più agricoltura biologica, è una contraddizione? Dunque, io sono convinto di una cosa, che è nella diversità che si trovano le soluzioni. E le diverse soluzioni possono convivere agevolmente, con opportuni adattamenti, ma possono convivere agevolmente. Ora, l'agricoltura biologica in alcune situazioni specifiche può essere una soluzione valida, avendo anche un mercato di nicchia che chiede questi prodotti. Non può essere il modello generalizzato. Perché? Perché richiede molta più superficie e molta più manodopera, che ha un costo. E sicuramente, per esempio, per un paese come l'Italia non è competitivo il modello biologico esteso come modello unico. Ci sono paesi, per esempio, dell'est europeo che hanno delle condizioni di costo del terreno o di costo del lavoro sicuramente più favorevoli da questo punto di vista. Chiedere, rilanciare la questione del OGM è molto importante. Perché? Perché in Europa da 10 anni circa, sì, e in Italia in particolare, la ricerca, la sperimentazione in campo si è fermata. Pensi che in Italia, l'Italia era il secondo paese sperimentatore a livello europeo fino alla fine degli anni 90, c'erano 200 sperimentazioni in campo, 60 erano del tutto originali, cioè non si facevano da nessun'altra parte del mondo, riguardavano problemi specifici, di areali specifici della nostra agricoltura. Quasi tutti di ricerca pubblica. Dal 2000 in poi le prove sperimentali in campo in Italia praticamente sono scomparse, anzi negli ultimi 8 anni ce ne sono state 2. E questo è gravissimo, perché vuol dire rimanere indietro in un percorso tecnologico che sta dando delle nuove soluzioni interessanti, ad esempio per quanto riguarda la produzione di biocarburanti. Negli Stati Uniti è stato approvato e sta entrando in coltivazione un mais che riesce a rendere il 10% in più in etanolo, in bioetanolo, e quindi vuol dire risparmiare sulle risorse e avere dei processi più efficienti. Ora credo che questo sia un percorso tecnologico che non si può ideologicamente escludere, sicuramente non è l'unico, ma è una cosa che bisogna prendere in considerazione e cercare di incentivare, così come altre forme, certo, come l'agricoltura biologica, la lotta biologica integrata o quant'altro. Ringraziamo davvero il professor Dario Frisio, economista agrario dell'Università degli Studi di Milano. Grazie, buona giornata, Frisio. Grazie anche a lei. Europost-it. Bimbi europei con Zoe alla ricerca dell'acqua perduta. La Commissione europea ha lanciato un'applicazione per smartphone dedicata ai bambini dai 7 agli 11 anni. Si tratta di un racconto digitale interattivo per comprendere il valore dell'acqua, conoscere il ciclo idrologico e insegnare a non sprecare le risorse. Si chiama Zoe va controcorrente e parla di due bambini che scoprono l'importanza dell'acqua grazie ad un saggio principe ranocchio che li mette in guardia dalle conseguenze dell'inquinamento dell'acqua. L'app è scaricabile gratuitamente su dispositivi Apple e Android e offre divertenti animazioni ed elementi interattivi con cui i bambini approfondiscono le proprie conoscenze sul ciclo idrologico. Se non avete uno smartphone, potete dare un'occhiata alla versione online del racconto disponibile in inglese, francese, tedesco, spagnolo, italiano e polacco. Cercate Zoe va controcorrente sul sito ec.europa.eu/Italia. Ursula, sie wollen Überwachungsstaat. Online-Razzia, ja, na klar. Und auf dem Klo ne Kamera. Sie schicken dir die Polizei wegen der Deepfakes oder MP3. Verfassung ist dabei egal. Piratenpartei, meine Wahl. Ich bin ein echter Pirat. Das Volk regiert und nicht der Staat. Ancora buon sabato da Federico Taddia. Questa è l'altra Europa. @ Federico Taddia. Se volete trovarci su Twitter oppure facebook.com/l'altra Europa, per essere aggiornati minuto per minuto con tutti i link relativi agli argomenti che andiamo a toccare. Quello che state ascoltando non è una versione tedesca di Dragon Ball, sembra quasi la sigla di un cartone animato, no, è uno degli inni dei pirati tedesche. Vogliamo parlare di loro dopo aver letto un bell'articolo sulla stampa di Tonia Mastrobuoni, giornalista ed esperta di economia internazionale. Il titolo: i pirati affondano militanti e hacker, dicono ci avete deluso. E Tonia è qua con noi. Ciao Tonia, buon sabato. Ciao, buongiorno. Adesso non so se hai ascoltato la puntata dall'inizio. Non è guarda, gli ultimi 20 minuti un pochino. Ok, perché ho trovato il regalo da farti per Natale. Che sì? È, sì, che è il gioco in scatola in portoghese intitolato Arriva la Troica, dove vince chi riesce a mandare in default il Portogallo. Non giocherei mai con te perché so che conosceresti tutti i trucchi e sicuramente sarei sconfitto immediatamente, però ti ho pensata mentre presentavo questo gioco. Grazie, lo gradirei moltissimo invece, mi divertirei un sacco, credo. Allora, Tonia, cosa sta succedendo in Germania? Perché il fenomeno dei pirati, di questo partito, di questo movimento, adesso anche definirlo è sempre complicato, che ha avuto questa storia, questo inizio in rete, questa esplosione di consensi, e adesso invece c'è un calo non solo nei sondaggi, ma c'è quasi un calo di credibilità, di fiducia, soprattutto ha perso quella spinta, pare, che arrivava dal basso. Ma loro secondo me sono a un punto cruciale di ogni piccolo movimento che poi a un certo punto diventa partito oppure ambisce semplicemente a governare, no? Ed è quello di confrontarsi con la realtà, di confrontarsi con programmi che non siano appunto programmi molto specifici come erano i loro. E io mi aveva molto impressionato, perciò ho scritto l'articolo, questa uscita di una figura leggendaria in Germania, ma in tutto il mondo. Esiste a Berlino dall'inizio degli anni Ottanta questo famosissimo Chaos Computer Club, sì, che è un, per gli smanettoni lo conoscono tutti, è praticamente uno dei più importanti gruppi di hacker al mondo. Sono quelli che negli anni Ottanta andavano per primi nelle banche, rubavano i soldi e poi li restituivano con conferenze stampa dicendo qui c'è un problema di sicurezza, eccetera eccetera. Allora loro hanno detto che sono delusi dai pirati tedeschi, e questo è suonato un po' come la campana a morto per un movimento, come dire, che alla base là, no, tra gli hacker, tra gli smanettoni, tra quelli che e cosa è successo? Tu dicevi giustamente hanno avuto un successo crescente e a un certo punto addirittura sono esplosi l'altro anno, perché in Germania, come sappiamo, ogni tot ci sono delle elezioni federali, purtroppo troppo spesso, perché poi condizionano tantissimo la, certo, Merkel. E in quattro regioni tra settembre del 2011 e giugno, mi pare, del 2012, loro sono entrati proprio trionfalmente, superando la famosa soglia del 5% che serve in Germania per entrare. Quindi sono entrati nei parlamenti regionali, in quello federale. Quindi sono entrati in questi parlamenti, no? Quindi, come dire, è un partito ormai che siede nei consigli regionali, hanno addirittura a maggio, a giugno, hanno addirittura, sono riusciti a conquistare anche una città, quindi c'è anche un sindaco pirata in Germania. Tutto questo successo che cosa ha comportato? Ha comportato una riflessione, no? Cioè, perché a un certo punto hanno detto vabbè, noi non è che possiamo continuare solo a occuparci dei nostri temi di elezione, che sono, lo voglio ricordare ovviamente, i diritti d'autore, sì, la trasparenza su internet, poi ne hanno aggiunto qualcuno in più già nel congresso dell'anno scorso, perché per esempio hanno adottato una linea contraria al nucleare, no? All'energia nucleare, oppure sono molto impegnati sui diritti civili, diritti per gli omosessuali, eccetera eccetera. Però a un certo punto si sono resi conto che devono fare anche un pochino devono cercare di capire che cos'è, non so, il fisco, che cosa sono i conti pubblici, come si governa una regione, perché anche per entrare nel dibattito. Allora lì si è creata proprio una cesura, cioè hanno fatto un congresso adesso a novembre, abbastanza miracoloso, perché loro non hanno neanche delegati, cioè loro si incontrano 2000 militanti e poi lavorano a questa piattaforma faticosamente, anzi è uscita una piattaforma, già questo è un miracolo. In questa piattaforma loro eroicamente hanno cercato di mettere insieme qualche punto generico, tipo che l'economia deve avere un volto umano, oppure insomma cose così, ancora molto acerbe, no? Molto fumose, esatto. Sì, anche per noi cinici, insomma, sì. Così un po', poi noi in Italia, per noi in Italia politica è una cosa molto più così. Tonia, ma è una forzatura giornalistica secondo te vedere assonanze col movimento di Beppe Grillo qui in Italia? Cioè sono percorsi simili? Ma il percorso, anzitutto appunto loro stanno adesso, sono in crisi e stanno scivolando sotto la soglia del 5%, quindi dai sondaggi che davano al 12%, sì. E dai voti reali che l'hanno dati al 7-8% l'anno scorso, lo stanno scivolando sotto quella soglia là, perché hanno questa crisi secondo me proprio esistenziale. Sì, si possono paragonare, nel senso che da un certo punto di vista, perché la base è una base che costruita su internet, no? Certo. Sulla rete, però poi i parallelismi finiscono abbastanza qui, non hanno un capo carismatico, diciamo così, come Beppe Grillo, nel bene o nel male, non hanno uno, ecco, e non hanno neanche queste strutture così. C'è stata questa polemica in questi giorni sull'antidemocraticità di Grillo, no, di Casaleggio. Loro sono esattamente l'opposto, la discussione sui pirati è continuamente appunto allargata a tutti, sono tutti Casaleggio, diciamo, è un po' questa cosa, Casaleggio, esatto. La similitudine, diciamo, il parallelismo è nel fatto che è nato come un movimento di protesta, no? Rispetto all'establishment, cioè rispetto ai partiti consolidati in Germania, che sono, come sappiamo, i cristiano-democratici, sono i socialdemocratici, i verdi e i liberali, e la Linke. Rispetto a questi partiti hanno un po' rotto, ecco, gli schemi, hanno addirittura a un certo punto insidiavano i verdi l'inverno scorso, quindi hanno costretto anche la politica a ragionare su se stessa, no? Cioè, ecco perché tanti voti vanno là, è un po' la riflessione che si fa anche, sì, in Italia, perché mm-hmm. poi, però non ha i toni populistici, non ha i toni, è molto più, per certi versi i pirati tedeschi sono molto più sgangherati, infatti gli scandali che emergono sono scandali comici, ora ce n'è uno un po' più tragico, perché hanno, ogni tanto emerge qualcuno con simpatie un po' strane, mm-hmm. O addirittura neonaziste, sì. Però ecco, è un movimento un po' sgangherato, dove per esempio il capo, uno dei capi, è un disoccupato che ha suscitato molte polemiche, perché lui si fa finanziare dal partito, cioè fa fundraising nel partito, rising nel partito, per autofinanziarsi appunto da mangiare e da dormire, no? Sì, esatto, si è autoinventato questa forma di rimborso elettorale, esatto. Diciamo così. Ha trovato un lavoro. Assolutamente. Tonia, grazie come sempre per la fotografia puntuale di quello che vedi, di quello che noti. Teniamoli d'occhio però i pirati, perché ci piacciono e sono comunque sono a rischio, sono deriva, simpatici. Sono simpatici, però appunto possono essere anche visionari e preoccupanti nello stesso modo, quindi credo che un occhio d'attenzione vada mantenuto costante. Grazie come sempre Tonia, buon lavoro e buon sabato. Grazie a voi, buon sabato anche a voi. E noi passiamo al volo per raccontarvi quello che è successo invece pochi giorni fa a Torino, dove è stata sottoscritta la dichiarazione di Torino, un'iniziativa voluta da Pietro Marcenaro, il presidente della Commissione Affari Politici e Democrazia dell'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa, dove si sono svolti gli stati generali dei diritti umani. E i diritti umani possono ripartire proprio da questa carta di Torino, sottoscritta da 120 parlamentari di 47 paesi del Consiglio d'Europa. E Pietro Marcenaro è qua con noi. Buongiorno Marcenaro. Buongiorno. Allora, solitamente quando si firma una carta è tanto fumo, si pensa sia un punto di arrivo, invece credo che qui le intenzioni siano diverse. C'è stata una viva soddisfazione nell'arrivare almeno a questo documento, vero? Sì, diciamo che è un impegno che abbiamo preso insieme, 120 parlamentari di 47 paesi, molti presidenti delle commissioni estere e delle commissioni dei diritti umani, di agire nei nostri paesi, nei nostri parlamenti, verso i nostri governi, perché si sposti in avanti un equilibrio che oggi è troppo arretrato fra principi e realpolitik nella politica estera, fra diritti umani e interessi. Oggi la politica estera molto spesso scopre i diritti umani solo quando sono oramai diventati una tragedia. Dei diritti umani il passo all'emergenza umanitaria può essere breve, questo vuol dire crisi, vuol dire molto spesso trovarsi di fronte a quello che abbiamo chiamato il dilemma di Srebrenica, cioè una comunità internazionale che è messa di fronte alla drammatica alternativa fra o l'intervento militare o la viltà di chi assiste impotente a una strage di innocenti. Ecco, come si interviene per far sì che la questione dei diritti umani, diventando un elemento permanente della politica estera, diventi una vera campo di politica e di, vuol dire, non solo di rispetto dei diritti, di crescita delle possibilità per gli uomini e per le donne, ma anche di prevenzione delle crisi. Cioè, la violazione dei diritti umani è un elemento di, non solo di, appunto, di violenza contro delle persone, ma di determinazione di crisi profonde che poi tutta la comunità è destinata a pagare. Non so se è chiaro quello che dico, ma sono molto convinto di questo. Assolutamente, poi assolutamente significativo che tutto ciò sia arrivato a poche ore dalla consegna del premio Nobel per la pace all'Unione Europea. La pace parte proprio dai diritti degli uomini e delle donne. Diciamo la verità, insomma, che attraverso anche questa iniziativa abbiamo anche voluto richiamare a vedere questo premio Nobel non semplicemente come una cosa un po' retorica e come una cosa consolatoria, ma in fondo si è preso come una spinta a un impegno nuovo. Diciamo la verità, noi non siamo soddisfatti di come questa Europa fino ad oggi ha funzionato sul piano della politica estera. Noi abbiamo fatto troppo poco, comunque meno di quello che avremmo potuto fare, di quello che si può fare. L'Europa, e soprattutto bisogna partire da una cosa: se si vuole discutere dei diritti umani con una serie di paesi, ci sono due condizioni. Primo, bisogna avere carte in regola a casa propria, perché, e quindi non considerare la questione dei diritti umani come una questione che riguarda solo gli altri, affrontare. E secondo, bisogna farlo insieme. Come dice un mio vecchio amico, per discutere con la Cina bisogna avere il fisico, no? I singoli paesi questo fisico non ce l'hanno, forse l'Europa nel suo insieme è un interlocutore che può affrontare dei problemi che ciascun paese da solo non può affrontare, non ha la forza per farlo. Certo, e questa dichiarazione di Torino sta proprio lì, come un post-it importante per ricordare l'impegno preso. Io spero che questo ci... ma sono convinto che perché vede, noi ci siamo mossi con questa volontà, ma secondo me ci siamo mossi sulla base di un problema oggettivo che sta diventando sempre più importante. Questa parola diritti umani una volta era una parola quasi sconosciuta, riservata a pochi specialisti, a pochi filantropi, si potrebbe dire. Oggi è diventata una delle grandi questioni della politica estera. Non esiste nessun trattato di collaborazione e di amicizia fra i diversi paesi e nessun trattato economico che non comprenda delle clausole di rispetto dei diritti umani, di avanzamento verso la democrazia. Ecco, far diventare queste clausole effettive e capire come questi impegni che i paesi sottoscrivono fra di loro vengono rispettati, viene monitorato. Questo rispetto è un'altra delle cose molto importanti. Grazie davvero a Pietro Marcenaro, Presidente della Commissione Affari Politici e Democrazia dell'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa. Buon sabato Marcenaro e grazie per essere stato anche con lei, noi. Arrivederci. Chi siete? Siamo due che... Cosa fate? Cosa portate? Niente, roba... Sì, ma quanti siete? Due, siamo io e lui, dietro non c'è... Un fiorino. Si paga? Un fiorino. Una scena indimenticabile di tratta da Non ci resta che piangere. Sono Troisi e Benigni, sono a una dogana, perché proprio la dogana è il tema di cui andiamo a parlare, la dogana di cui le dogane, che non ci sono più, questi confini che sono diventati per fortuna solo segni aleatori, solo ricordi. Ne abbiamo parlato molto parlando di Unione Europea. E proprio le dogane fantasma, quello che è rimasto, i segni che sono rimasti di queste vecchie dogane, sono il cuore di una ricerca fotografica fatta da un artista polacco, si chiama Józef Szulce, fotografo polacco nato nel 66, che ha costruito questo catalogo visivo viaggiando per l'Europa a caccia di queste dogane, di queste gabine, di questi piccoli locali nei valichi alpini, in terreni sconosciuti, in pianure. C'è veramente un enorme varietà di situazioni. Ho già pubblicato sia su Facebook che su Twitter un link dove si possono vedere queste immagini. Abbiamo con noi però una gallerista che ha seguito il lavoro di Josef, che ha lavorato a cavallo dell'Italia e della Germania. Diamo il benvenuto a Manuela Klerz. Buongiorno Manuela. Buongiorno. Buongiorno. So che è difficile far vedere delle fotografie in radio. Ci può raccontare però il lavoro che ha fatto Szulce? Sì, volentieri. Allora, Szulce ha iniziato questo progetto dopo l'anno 2000 e lui viaggia nei paesi europei e, come ha detto lei giustamente, fotografa delle dogane che sono una specie di traccia di tempi che sono passati. Quindi a lui non interessa fotografare la dogana com'è, tipo come un documento obiettivo, ma una interpretazione che riflette il carattere di un paese, di un'epoca, ecco. Mm-hmm. Ed è un viaggio nostalgico, no? Perché sembra a volte sembra veramente di viaggiare nel tempo. E ho visto un po' di queste fotografie e non sono raffigurate persone, ha proprio scelto lo stabile come simbolo, come oggetto dei suoi scatti. Sì, appunto, perché lui ha studiato la fotografia con la coppia Berendt und Hilla Becher, sì, che sono due tedeschi che negli anni 60 hanno fatto scuola con la loro fotografia, e anche loro viaggiavano molto e hanno fotografato delle fabbriche che stavano per sparire, e la loro visione era di fotografarle in modo obiettivo più scientifico possibile. Non era permesso un'interpretazione soggettiva di questi edifici. Allora, famosi fotografi come Thomas Ruf, Thomas Struth, Andreas Gursky hanno studiato la fotografia con loro e hanno portato avanti questa filosofia nel modo loro, ma Josef Szulce per prima, in modo digitale, ha reintrodotto sì, la soggettività. Quindi le sue dogane, come ho detto prima, non sono una riflessione obiettiva, una rappresentazione obiettiva della realtà, ma una sua relazione con un'atmosfera, per esempio un'ombra che rende più forte in una fotografia, le persone che non ci sono, un edificio abbandonato, lo fotografa con la pioggia sopra per insistere sull'aspetto oppure di passato, ecco. Esatto, raccontano con questo forte impatto visivo l'abbandono, l'isolamento, la solitudine di questi luoghi, e ci riesce perfettamente. Tra l'altro so che Szulce ha viaggiato ovviamente tutta Europa, ma lui aspetta che una nazione entri all'interno dell'Unione, e quindi a quel punto le frontiere, le dogane vengono messe in disuso, e a quel punto va e scatta le sue fotografie, si porta a casa queste souvenir. Ma Manuela, tu lo conosci anche personalmente, porta a casa anche storie, intervista, che ne so, i vecchi doganieri, parla con le persone che vivevano lì lungo le linee di confine? No, non credo proprio. La sua ricerca è proprio una cosa molto individuale, molto un percorso molto artistico, nel senso che lui prende la sua macchina fotografica, e appunto quando non vede nessuno, quando si sente proprio l'abbandono sì, dopo sì, lui si mette a fotografare e se c'è qualcuno a parlare eccetera va bene, ma non ha importanza per lui. Ok, grazie davvero per questa testimonianza. La tua galleria dove si trova? Ma in realtà avevo una galleria a Milano, okay, a 2004 a 2009, ma adesso abito ad Amsterdam, sì, dove ho un'agenzia, quindi non più un posto fisso dove lavoro, ma è il sito web che è il mio luogo dove lavoro. Se ce lo vuoi dare, si chiama Clerics Art Agency. Perfetto, lo pubblicheremo sui nostri social network. Grazie, ciao e buon sabato. A lei, buona giornata, salve. Questo grazie va a tutti voi e va a tutta la squadra dell'Altra Europa, Margherita Aina, Miriam Lucchetti, Giorgio De Luca e Filippo Aureggi oggi alla parte tecnica. C'è già Davide Paolini, il gastronauta, che sta arrivando subito dopo il GR. L'appuntamento è a sabato prossimo, ma anche a giovedì 20 con uno speciale dalle 21 alle 24. Sarò qua per vivere insieme la notte prima della fine del mondo. Vi aspetto, ciao!